Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Alle 17:10 minuti inizia un'altra puntata di Focus Economia. Come già annunciato dal nostro GR, siamo in diretta dal Salone di Risparmio che si tiene anche quest'anno alla sede della Bocconi qui a Milano. Ci occuperemo di risparmio perché il Salone quest'anno si tiene nei giorni in cui il risparmio gestito celebra, da quello che vediamo almeno come dati, un ritorno anche importante, lo vediamo anche sui titoli quotati, un ritorno, dicevo, del risparmio gestito, il che fatemi fare questo passaggio, spero non troppo pindarico, fa il paio con quanto vediamo oggi anche su un dato che riguarda la fiducia dei consumatori italiani, che è tornata ai massimi dal 2011. Allora, le agenzie già titolano effetto Renzi. Io non so se sia effetto Renzi, so che la fiducia a 101 punti nei consumatori italiani non la vedevamo dal giugno del 2011. Parleremo quindi di risparmio gestito, di borsa, ma anche di stipendi dei dirigenti della pubblica amministrazione, nel senso che oggi su Sole 24 Ore viene fatta un'analisi dettagliata su quanto guadagnano. Hanno ragione alcuni dirigenti a scrivermi: attenzione nella scuola, per esempio, nessuno arriva mai alle cifre che abbiamo letto, nessuno arriva mai agli 80.000 euro. È vero, ci sono vari ministeri che hanno il record di stipendi dei dirigenti, mi riferisco agli esteri con il corpo diplomatico, ma non solo, e poi ci sono vari ministeri in cui i dirigenti non arrivano neanche lontanamente alle cifre che abbiamo visto, ed è giusto anche fare un distinguo. Ci occuperemo anche di fisco, perché è uscito il dato, come ogni anno, delle dichiarazioni dei redditi. Allora, non li abbiamo ancora a livello scorporato, però fa impressione notare, da un lato, che, per carità, il 5% degli italiani dichiara più di metà dei contribuenti. Questo però, oltre ad aumentare il cosiddetto coefficiente di Gini, quello che misura la sperequazione in un paese, cioè quanto è polarizzata oppure no la ricchezza, e noi siamo tra i paesi in cui, stando a questi dati, in cui la distribuzione della ricchezza è più diseguale, un indice già che era a 32 punti già nel 2011, praticamente quando l'indice è zero tutti hanno più o meno la stessa ricchezza, più sale l'indice più aumentano le disuguaglianze. Pensate che in Francia è 30 punti, in Germania 29, in Olanda 25, in Svezia 24, e invece nei paesi come Grecia, Portogallo e Spagna è sopra quello italiano. Ma dicevo, al di là di questo, quello che fa impressione è vedere che metà dei contribuenti dichiarino meno di 15.654 euro, il reddito medio si attesta a 19.750 euro, ma è una media, ripeto, il 50% dichiara meno di 15.654 euro lordi, i dipendenti dichiarano, quindi quelli che hanno la trattenuta in busta paga, dichiarano in media 20.280 euro, gli autonomi in media 36.000 euro, gli imprenditori in media 17.400 euro, superano di pochissimi i pensionati con 15.780 euro. Allora, senza fare di tutto un buon fascio, però obiettivamente la media degli imprenditori, che vuol dire mondo del commercio, dell'artigianato, della manifattura, così bassa, si giustifica poco. Anche perché notiamo che nel frattempo ci sono gli italiani che hanno case all'estero, lo dice sempre il fisco, per un totale di 23 miliardi di euro. E questo è quanto ammonta il patrimonio degli italiani, patrimonio immobiliare degli italiani all'estero. Sono 113.000 soggetti. E poi altri 130.000 dichiarano attività all'estero per un totale di 28 miliardi di euro. Allora, anche su questo faccio notare che in Italia ci sono 1 milione di auto circolanti che superano i 2.500 cc di cilindrata, faccio notare che ci sono 500.000 di barche sopra i 10 metri, per non andare quelle sotto i 10 metri, cioè, sono tutti dati che obiettivamente denotano ancora un'altissima evasione fiscale. Vedremo le categorie scorporate, ricordo che l'anno scorso fecero obiettivamente scalpore alcune dichiarazioni dei redditi, per esempio chi ha i ristoranti 14.300 euro lordi in media all'anno, vuol dire 1.190 euro lordi in media al mese. Oddio, io capisco che molti ristoratori siano in difficoltà, però è un po' pochino ad essere buoni. I tassisti 14.800 euro lordi, 1.230 euro lordi al mese. I gioiellieri 17.000 euro lordi, 1.410 euro lordi al mese, mi sembra un po' poco per un gioielliere. E via così. Faccio notare che anche sui notai avevamo invece cifre più corrispondenti al reale, 300.000 euro in media lordi all'anno, 26.500 euro, però ci sono per esempio anche i negozianti che hanno che vendono abbigliamento e scarpe, 8.600 euro lordi l'anno, mi sembra un po' poco per chi ha un negozio, capisco che vi siano detrazioni e quant'altro. E i pellicciai, 1.100 euro lordi al mese, un po' pochino, e via in questo modo. Poi c'erano anche gli autosaloni e quant'altro. Per quello che riguarda il dato, lo ricorderemo anche perché domani il Sole 24 Ore invece uscirà con un'iniziativa importante che avrà a che fare con la nuova stretta, i nuovi controlli fiscali che partiranno a brevissimo, e c'è un'esclusiva del Sole 24 Ore su questo, ne parleremo. Parleremo anche di Cina oggi, per non restare solo sull'Italia, perché la Cina, dopo gli allarmi arrivati in questi giorni, desta qualche preoccupazione. Sostanzialmente, se non può continuare a crescere solo con la manifattura e con l'export, deve crescere anche con i servizi e con i consumi interni. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora partiamo dalla borsa, più 1,20% Milano in questo momento, Parigi più 0,80%, Francoforte più 1%, per quello che riguarda i titoli oggi invece è forte la Pop Milano più 5%, Salvatore Ferragamo più 4,5%, come la Pop Emilia Romagna, il 3,70% lo guadagna Mediolanum, il 3,60% Mediaset, il 3,5% Xor, il 3,40% Telecom come Tod's, il 3% Jux, il 2,70% è il guadagno di Luxottica, il 2,5% quello di CNH Industrial e di Finmeccanica. E oggi tutte le borse sono ben intonate, ma in particolar modo Milano, anche perché oltre al dato sulla fiducia dei consumatori c'è anche un dato sulle emissioni di CTZ ai minimi, quindi c'è un clima di fiducia che aumenta, lo so che a molti può sembrare strano, ma aumenta tra i consumatori italiani, e comunque si mantiene un clima di fiducia degli investitori anche esteri nei confronti del debito italiano. Comunque tra gli altri titoli, oltre a Luxottica che continua a avvantaggiarsi dell'accordo con Google per i Google Glass più 2,70%, diciamo Finmeccanica più 2,60%, CNH più 2,5% come Prismian, Buzzi Unicem più 2% come Fiat, di negativo c'è solo G-Tech meno 0,80%, A2A meno 0,50% come Pirelli. La crisi dell'Ucraina non sta creando tensioni sul prezzo del petrolio, che resta a quota 99,6 dollari al barile, poco variato. Obama, come ricordava il nostro GR24, ha già autorizzato l'export di gas americano verso l'Europa. Per quello che riguarda invece i temi europei, faccio notare due cose: che la Grecia da un lato è quasi pronta a tornare sul mercato, quindi tornare a mettere titoli di Stato quindi per finanziare il suo debito, ma non prima delle elezioni del Parlamento europeo di maggio, lo ha detto il ministro delle finanze ellenico Yanis Sturnaras. Nel frattempo però ci sono 9 miliardi di aiuti alla Grecia che rischiano di essere bloccati, sono gli aiuti della Troica, BCE, Unione Europea e Fondo Monetario, perché 8 parlamentari di una maggioranza che quella che sostiene il governo greco, che è già molto risicata, ha una maggioranza Samaras di 153 deputati su 300, hanno annunciato il voto contrario all'accordo raggiunto proprio con la Troica per un nuovo pacchetto di finanziamenti. Cos'è in ballo? Il latte. Può sembrare paradossale, ma la Grecia rischia di non ricevere 9 miliardi di aiuti perché in questo accordo sulle liberalizzazioni si prevede di allungare la scadenza entro cui il latte in Grecia può essere definito fresco, portandolo da 5 a 10 giorni, una norma che aprirebbe le porte del mercato nazionale a prodotti più a buon mercato in arrivo da Francia, Germania e Olanda, ma che ha scatenato le proteste degli allevatori greci. Allora io dico, per carità, può sembrare miope, però già la Grecia ha una difficoltà di produzione sua e di export suo, cioè non ha un sistema industriale forte. Una norma che andrebbe ad avvantaggiare un paese che invece va aiutato, aumentando le esportazioni di latte olandese, tedesco, quando non hanno nessun bisogno di aiuto, e anche francese, è una norma sbagliata, a mio avviso, per cui hanno ragione questi 8 deputati, anche se in ballo mi rendo conto ci sono 9 miliardi, hanno ragione a protestare, perché l'economia greca va aiutata in maniera strutturale, non solo con così botte di liquidità e di aiuti che poi magari fra 2 anni dobbiamo ridare. Allora cerchiamo di non danneggiare quel poco che di economia positiva ha la Grecia, lo dico col massimo rispetto, ma non ha un sistema di impresa molto forte. E poi è brutto che questo accordo che vuole la Troica vada ad avvantaggiare paesi che non hanno nessun bisogno di essere avvantaggiati, dai. Veniamo all'Italia. Allora, già vedo le agenzie, i siti che si dilettano nel dire il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano dà uno stop a Matteo Renzi. Che cosa è successo? Il Presidente della Repubblica ha detto basta ai tagli immotivati sulla spending review, deve intervenire con capacità selettiva, il che però presuppone discorsi che ancora assai poco vengono fatti. Bisogna considerare quali sono le presenze realmente essenziali per l'interesse nazionale e darsi un nuovo ordine di priorità. Il passaggio da tagli che abbiamo conosciuto in una certa fase come tagli assolutamente immotivati, diciamo che non richiedevano quasi motivazione, erano tagli e basta, sulla base di percentuali, sulla base di parametri, indipendentemente da quello che c'era dietro i numeri, dietro le sigle qualche volta. E la questione grossa, perché non c'è segmento di spesa pubblica che non abbia in sé interessi fondamentali, interessi non fondamentali, interessi generali, interessi particolari, è diciamo un coacervo nel quale la spending review dovrebbe intervenire con una capacità selettiva che però presuppone discorsi che ancora assai poco vengono fatti. Così appunto il Presidente della Repubblica. Nel frattempo il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che appunto oggi era a Scalea, avete sentito, ogni settimana visita una scuola, avete sentito alcune dichiarazioni sul voto di scambio che riguardano una sfera eminentemente politica, ma ne ha fatte altre proprio sulla spending review. Allora, sulle province, ha detto Renzi, siamo consapevoli che alcune province lavorano bene, ma dare un segnale chiaro, forte e netto con 3.000 posti per i politici in meno è la premessa per dare speranza e fiducia ai cittadini, e non è un caso che la riduzione dei costi dei posti della politica sia la premessa per restituire 80 euro ai cittadini. Sappiamo che ci sono tante amministrazioni provinciali che fanno bene il loro lavoro, ma è arrivato il momento di dare un messaggio chiaro, forte e netto. 3.000 posti in meno ai politici è la premessa per tornare a dare speranza e fiducia ai cittadini. Non è un caso che la riduzione dei costi della politica, aggiungo dei posti della politica, è la premessa per l'operazione di restituzione degli 80 euro in tasca ai cittadini che stiamo cercando di fare. E poi sempre a Scalea ha detto Renzi, guardiamoci negli occhi, perché bisogna avere il coraggio di dire, il tema era relativo all'utilizzo, o meglio al non utilizzo spessissimo dei fondi europei da parte delle regioni del sud, i fondi di coesione, che la gestione dei fondi europei, che bisogna cambiare totalmente passo nella gestione dei fondi europei, lasciando una gestione burocratese. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms. Adesso ci occupiamo non degli stipendi dei manager, lo faremo dopo questo, perché abbiamo un approfondimento anche del Sole 24 Ore. Però vorrei partire dagli stipendi dei manager, ascoltando anche le dichiarazioni di Renzi sugli stipendi dei manager, per poi raccontare invece quelle che sono le dichiarazioni dei redditi degli italiani. Allora, qua vedo già molti sms di offesa. Attenzione, cerchiamo di evitare un vizio italico, che il problema sono sempre gli altri. facciamo da anni una campagna contro gli sprechi della pubblica amministrazione, le ruberie, le malversazioni, facciamo una campagna anche contro il pagamento ingiustificato dei dirigenti della pubblica amministrazione, che non si capisce perché debbano avere uno stipendio che è del 13% più alto della media europea, del 100% per quelli di seconda fascia. Però facciamo anche da sempre una campagna contro, non diciamo, l'evasione è sempre evasione, ma nessun accanimento nei confronti di quello che non ci sta dentro negli studi di settore. Però riconosciamo anche che le dichiarazioni dei redditi, che anche quest'anno vediamo, sono distantissime dalla realtà, e soprattutto per alcune categorie professionali, con tutto il rispetto, ma è difficile immaginare le cifre che abbiamo appena ascoltato. Renzi sugli stipendi dei manager dice: vado fino in fondo. Noi dobbiamo far capire come classe politica che è arrivato il momento di dire basta al fatto che guadagnano sempre i soliti e si inizia a tagliare sui costi e sui posti della politica. Ecco perché le province, ecco perché il superamento del Senato, ecco perché il tetto ai dirigenti pubblici che non possono guadagnare le cifre che in alcuni casi guadagnano. Allora, intanto oggi sappiamo che l'amministratore delegato dell'Enel Fulvio Conti ha ricevuto un compenso l'anno scorso ridotto del 65% della parte variabile della retribuzione, quindi ha guadagnato 2.100.000 euro contro i 3.500.000 del 2012. E tra i due anni, quindi, le competenze per Conti sono diminuite di 1.400.000 euro. Però benefici di piani di incentivazione di lungo termine maturati ma non ancora percepiti per oltre 1 milione di euro. Ancora, per quello che riguarda gli stipendi dei manager, arriveremo, perché il Sole 24 Ore oggi scopre che ci sono 118.000 dirigenti che guadagnano almeno 80.000 euro lordi l'anno e incidono per il 10% sulla spesa complessiva della pubblica amministrazione. Nel corpo diplomatico siano il 96% guadagna almeno 80.000 euro di l'anno, in magistratura almeno il 90%, nelle autorità indipendenti almeno il 43%. Invece in fondo alla classifica troviamo la scuola, dove nessun dirigente arriva a 80.000 euro lordi l'anno, i vigili del fuoco, dove praticamente nessuno, lo 0,6%, e la polizia, lo 0,8%. Beh, insomma, col massimo rispetto per il nostro corpo diplomatico e per la nostra magistratura, un paese che mette in fondo alla classifica il lavoro magari meritevole dei dirigenti e premia solo il corpo diplomatico, dai, su, riduciamo, vediamo cosa fanno questi ambasciatori, vediamo qual è il ruolo commerciale. Io ho avuto varie esperienze, ci sono quelli bravi, quelli non bravi, insomma, non è che tutti devono sempre essere sopra quel livello. E mi fa specie che nessun dirigente scolastico possa arrivare a 80.000 euro di l'anno, che non sono una cifra, diciamo, sono un buono stipendio ma non sono una cifra miliardaria, e anche i vigili del fuoco e la polizia. Nel frattempo, io non voglio essere malizioso, però è un po' strano che il presidente dell'ANAS Pietro Ciucci, che era stato anche presidente della società Ponte sullo Stretto di Messina, dunque lui cosa succede? C'è la legge col famoso limite di 294.000 euro lordi l'anno per lo stipendio dei manager, dall'allora premier Mario Monti, e lo stipendio del primo giudice della Corte di Cassazione, se non ricordo male. La legge però esclude dal limite i dirigenti delle aziende che emettono bond, che emettono obbligazioni sul mercato. Il caso vuole che il 9 agosto del 2013, proprio il giorno della conferma di Ciucci a presidente dell'ANAS, io immagino sia solo una coincidenza, è il giorno in cui lui avrebbe dovuto tagliare lo stipendio da 750 a 294.000 euro, il Tesoro ha modificato lo statuto dell'ANAS in modo che l'azienda possa emettere bond per finanziarsi. Così, se questo accadesse, l'ANAS uscirebbe dal tetto della legge Monti. Sarà una coincidenza, non vogliamo essere troppo cattivi, però lo stesso giorno della conferma di Ciucci. Poi non ho capito perché, voglio dire, queste coincidenze avvengono sempre quando c'è un rinnovo di uno stipendio obiettivamente che sarebbe passato da 750.000 a 300.000 euro. Vabbè, adesso però gli stipendi dei contribuenti italiani. Mauro Meazza del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. So già che inizieremo a trarci gli strali degli ascoltatori. Mi stanno scrivendo, da un lato, i pellicciai che sono in ginocchio, e va bene. Da un lato, anche un tassista che dice, ma insomma, attenzione, chi vi dà questi dati? Lo studio di settore come minimo è sui 36.000 euro. Figuratevi se potessimo dichiarare 14.800 euro. Dall'altro mi scrivono anche i ristoratori, alcuni, che dicono che è difficile arrivare a 15.000 euro lordi l'anno. Ho capito. Allora, non abbiamo ancora, Mauro, oggi il dato scorporato, se ben visto? No, non ancora. Allora, innanzitutto, tu già prima hai precisato, insomma, questi sono dati medi, quindi come tutti i dati medi bisogna un pochino prenderli con le molle, il che non vuol dire trarre delle conclusioni o anche delle evidenze che sono sotto gli occhi di tutti, però, insomma, cerchiamo di guardarci dentro. Lo stiamo facendo, domani sul Sole 24 Ore andremo a presentare anche qualche riflessione in più. Innanzitutto, stiamo parlando di IRPEF. Quindi è inevitabile che chi, ad esempio, le imprese siano non comprese in questo tipo di comunicazione. Stiamo sempre confrontando dei dati da cui si vede che il club, per così dire, di quelli che pagano un po' di IRPEF è sempre molto ridotto. Appunto, è un club, non è una grande platea. 5% dei contribuenti danno il 22% del gettito, questo ci dicono i numeri, e questo mi pare una cosa, come dire, incontestabile. Poi ci sono i dati che ricordavi tu relativi alle categorie. Mi sembra di capire dagli SMS che tutti vorrebbero sapere puntuali informazioni sulla categoria propria o del proprio vicino di casa, o insomma un'attività se non delatoria quantomeno un esercizio di invidia. Allora, io vorrei riportare tutti, questi sono i dati del 2012. Le entrate fanno anche un lavoro molto interessante, che è, confrontiamo questo rispetto ai dati del 2008. Bene, innanzitutto ci sono 350.000 dipendenti in meno rispetto al 2008, ci sono 190.000 pensionati in meno, ci sono 32.000 imprenditori in meno e 138.000 soggetti che non hanno più dichiarato redditi da partecipazione. Questi sono i denari bruciati sull'altare della crisi. Al contrario, sono aumentati 128.000 unità i lavoratori autonomi. Soprattutto abbiamo visto un aumento di aperture di partite IVA da parte di persone fisiche. Che è un fenomeno che stiamo raccontando da tempo, cioè, diciamocela tutta, le imprese non assumono o assumono sempre meno e preferiscono proporre contratti da partita IVA, anche se di fatto, lo so, è così, di fatto il lavoro è quasi da dipendente. Quante sono dal 2008 al 2012? Sappiamo che, nel 2012 nel solo anno 2012 l'apertura di partita IVA sono cresciute del 5,8% da parte delle persone fisiche, quindi non parliamo dell'ammontare che è superiore ai 5 milioni, ma c'è stato questo incremento di persone fisiche che si sono aperte la partita IVA, o perché costrette dalle condizioni di lavoro, perché magari hanno perso il lavoro e quindi si sono dovute reinventare come lavoratori autonomi. Questo mi sembra un dato, come dire, al di là dell'esercizio di tu guadagni più di me, io guadagno più di te, che per carità è bellissimo, no, istruttivo. Io capisco che poi molti storcono lo stomaco e anche la bocca quando vedono certe dichiarazioni lorde complessive. Hai fatto bene a ricordare che la categoria imprenditori in realtà entra poco nell'IRPEF, perché ha molta IRAP anche dentro. Ci sarebbe da fare tutta un'altra considerazione. Poi negli imprenditori, come dichiarazioni IRPEF, andiamo a parlare di titolari di ditte individuali. Quindi, esatto, stiamo parlando del total tax rate, non stiamo parlando della pressione fiscale sugli utili societari, eccetera. Qui stiamo parlando dell'IRPEF, pura e semplice. So che ma il fisco purtroppo Suo. Invece fai bene, il fisco insomma, non è eccitante, è eccitante quando ti arriva la cartella, nel senso che è un'eccitazione negativa. Però resta con noi, Mauro, perché su questo fai bene a creare distinguo, ma tra l'altro c'è anche una novità che il Sole avrà in esclusiva domani, ma che siamo in grado di anticipare. Dicono che sei molto serio con me, mentre con Milan la mattina sei più gioioso, sarà colpa mia. Beh, ma non sempre mi tocca parlare di tasse, ecco, come dire, però se credi possiamo alleggerire un po', insomma è un po' però difficile. C'era un messaggio che non so se è vero o no, porca miseria, l'ho perso, perché era una moglie che diceva che suo marito Se si è fermato all'IKEA per ascoltare te, l'hai visto anche tu? Sì, non vada, sì, non si presenti neanche a cena, venga a cenare a Radio 24. Non abbiamo solo la mensa ad offrirgli. Comunque, beh, si fa quel che si ascolti, può. Ascolti la radio, ma vada anche all'IKEA, se l'ha chiesto sua moglie. Non vogliamo entrare anche in questo, abbiamo già abbastanza problemi. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, meteo, pubblicità, poi di nuovo in diretta dal Salone del Risparmio. Focus Economia. Alle 17.39 minuti riprende Focus Economia. Allora, con Mauro Meazza stavamo analizzando i dati del fisco sulle dichiarazioni dei redditi. Fatemi dare qualche risposta però. Allora, c'è chi mi scrive, difendiamo sempre gli autonomi evasori, ma non mi sembra proprio che stiamo difendendo gli autonomi evasori. Stiamo dicendo che poi i dati vanno scorporati per categoria. È chiaro che gli imprenditori si sono... imprese individuali risultano più bassi, gli imprenditori tra virgolette quelli che noi siamo abituati a raccontare, con dipendenti, con strutture, pagano un altro tipo di tassazione sugli utili, su IRAP e quant'altro. Ancora sui dirigenti mi dite, alcuni mi dicono ma voi siete pazzi, i dirigenti scolastici non devono essere pagati di più. No, io ho solo detto che è un po' strano un paese in cui il 90% del corpo diplomatico e dei magistrati ha almeno 80.000, i dirigenti hanno almeno 80.000 euro o sopra, mentre non avviene mai per i vigili del fuoco, per le forze di polizia e per i dirigenti scolastici, ce ne saranno anche di bravi. Sono d'accordo che anche nel nostro corpo diplomatico vada valutato sul merito, perché non vorrei fare un'intera puntata su come funzionano i consolati e le ambasciate, alcuni bene, altri malissimo, e comunque non mi sembra che vi sia una valutazione mai strettamente sul merito o non così stringente. Ancora per quello che riguarda gli sms, ha ragione un ascoltatore, qui lo dico con il massimo rispetto verso il Presidente della Repubblica e verso il Quirinale, ci mancherebbe, però così come il Presidente della Repubblica oggi ha detto no a tagli lineari, andiamo a fare i tagli mirati, forse è vero che il Quirinale ha già un po' ridotto la sua spesa, ma resta una spesa che è 10 volte equivalente al Presidente della Repubblica tedesca ed è comunque 8 volte equivalente a quello che costa Buckingham Palace, che non costa pochissimo, non mi sembra che la regina giri con le pezze. Allora forse anche il Quirinale potrebbe dare un segnale, che a noi risulta che ancora costi 228 milioni di euro l'anno gestire il Quirinale. Allora magari Presidente della Repubblica Napolitano, giusto chiedere i tagli non da macelleria sociale, non lineari, mirati in maniera precisa, dare le priorità, ecco, diamo anche un bel segnale. Non lo so, il Quirinale ce la fa a vivere con 115 milioni di euro l'anno? Non lo so, sarebbe comunque 4 volte più quello che è lo stanziamento per Buckingham Palace, ma almeno da 8 volte scendiamo a 4, o se no chieda alla regina. È vero che gli inglesi sono un po' taccagni e alcuni micragnosi, però magari anche questo aiuta a risparmiare. Mauro Meazza, allora continuiamo sul fronte fiscale, ma anche su quello che voi avrete domani in esclusiva come Sole 24 Ore. Sì, perché poi si lega direttamente a quello che stiamo raccontando, Sebastiano. Noi stiamo parlando di evasione, gli ascoltatori anche scrivono, ci chiedono insomma di prendere le parti di l'una o dell'altra categoria. Allora presentiamo domani sul Sole 24 Ore una guida allo spesometro. Allora, per evitare confusioni, sostanzialmente quello cosa succede? Che entro il 10 di aprile bisogna comunicare, tutti quelli che hanno una partita IVA vanno a comunicare all'Agenzia delle Entrate, quindi al fisco, le spese e le transazioni che sono state effettuate nel corso del 2013. In soldoni e in italiano stringatissimo significa che il fisco conosce esattamente quello che abbiamo speso nel 2013. Allora, fa parte di tutta questa grande offensiva contro l'evasione fiscale, offensiva che, ohimè, guardando ancora i dati di oggi, su questo non c'è niente da dire, non sta ancora dando i frutti che speriamo, i frutti che ci auguriamo, ma quello che è importante è che tutti questi dati, non so, hai acquistato una moto, un'automobile, ti sei iscritto a un circolo sportivo, magari di quelli un po' più onerosi, non voglio dire non una semplice palestra, ma qualcosa che costa magari qualche migliaio di euro all'anno, ebbene tutto questo finisce nelle banche dati del fisco, vengono tracciati appunto sia i venditori, i fornitori di servizi, sia coloro che questi servizi o questi beni hanno acquistato o pagato. Quindi tutte le indicazioni operative e anche i dubbi su quello che finirà nello spesometro. Mi dici una cosa a questo proposito, mi scrivono sempre in questi casi perché non si fa partire in questo paese il contrasto all'evasione. Voglio dire, quando arriva l'idraulico, l'autonomo, se non ce l'ho con l'idraulico, sì. Dico, ho detto l'idraulico per dire, l'elettricista, insomma le categorie di lavoro autonomo. Sappiamo tutti che cosa succede, che ti viene proposta insomma, con la fattura e l'IVA a un certo costo, senza IVA, non sempre per carità, però capita spesso. Da quello che sapevo io, lo Stato è terrorizzato all'idea che per i primi anni non saprebbe calcolare la differenza tra quello che becca come evasione nascosta e però quello che non prende per le detrazioni che posso portare. Ma è così? Guarda, il tema è molto serio. In 10 secondi, per essere un vero contrasto di interessi bisogna che lo Stato metta sul piatto un'offerta molto consistente. Bisogna offrire uno sconto IRPEF, tanto per parlare chiaro, molto alto, nell'ordine del 50% anche più per cento. Allora a quel punto per l'evasore diventa difficile, o potenziale evasore, diventa difficile battere lo sconto del fisco. Altrimenti risulta poco efficace. Questo non è che lo sto dicendo io perché sono amico degli evasori, eccetera. Ci sono gli studi internazionali che dicono, va bene contrasto di interessi, bisogna circoscriverlo a delle aree, a dei settori, a delle attività su cui sappiamo che c'è molto nero da prendere, perché allora può pagare in qualche modo, fa emergere. Questo è stato il caso del 36% che da diversi anni appunto riportiamo in dichiarazione. Però ripeto, lo sconto deve essere forte, se no l'evasore, come dire, resta in vantaggio competitivo sul fisco. Spero di essere stato esauriente con questa brevità. O c'è un vero vantaggio per me che ricevo, diciamo, il servizio dall'elettricista, dall'idraulico, da chi è, oppure se no si crea più caos che altro senza combattere il fenomeno. E si rischia di perdere gettito, esatto. E si rischia di perdere gettito. Allora, comunque, ricordo, domani guida pratica allo spesometro sulle varie categorie, le varie voci di spesa. Grazie Mauro Meazza, il traffico, poi la borsa e... contemporaneamente alla borsa anche il dato record, visto che siamo al Salone del Risparmio, della raccolta dei fondi che gestiscono i risparmi degli italiani, dato record sulla raccolta e anche sull'attivo. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. A 7:48 minuti, allora scrive una lettera auto che dice: io ho difficoltà serie a emettere fattura ai privati perché nessuno dei privati vuole pagare l'IVA. È esattamente quello che stavamo dicendo, non è solo la colpa dell'elettra auto in questo caso, ma anche del cliente, del cittadino. Comunque la borsa adesso è, la facciamo con Eleonora Michele, Sole 24 Ore Radio Call. Buonasera Eleonora. Buonasera. Ma anche con il direttore generale di Assogestioni, che è l'associazione che gestisce il risparmio in Italia, 300 membri, è Fabio Galli. Buonasera anche a lei, direttore. A voi. Se mi aprite il microfono di Galli, per favore, grazie. Allora, Galli, prima di arrivare alla borsa, più del 40% oggi, voi festeggiate in questo Salone del Risparmio a febbraio un surplus, cioè la differenza tra quanti hanno messo i soldi nelle gestioni e quanti li hanno ritirati, di 12 miliardi di euro. Che ha portato gli asset in gestione, cioè i risparmi gestiti dal risparmio gestito, a un livello record di 1.362 miliardi. Come si spiega questa fiducia nei gestori del risparmio, visto che buona parte del paese soffre ancora una crisi pesantissima? Ma sono numeri strani apparentemente, ma in realtà pensiamo a tre cose. Immobili. Gli italiani hanno investito per 40 anni in immobili e penso che questo periodo di crisi gli stia facendo capire che lì investire in immobili non significa crescere per sempre. Conti correnti, conti di deposito. Rendimento di conti correnti, conti di deposito praticamente nulli. E quindi c'è una consapevolezza che questo oro nero degli italiani, perché stiamo parlando di una massa di investimenti privati che sono i primi in Europa pro capite, quindi noi siamo un paese che ha dei ancora numeri, molti risparmi. Numeri terribili, tranne che sul risparmio, questi soldi stanno affluendo verso i fondi. Perché? Perché evidentemente, primo, c'è un sistema bancario che capisce che soltanto offrendo consulenza verso il risparmio gestito può in qualche modo dare un valore aggiunto alla propria clientela. E quindi il numero che avete citato, 11 miliardi e passa, sono un numero clamoroso a livello europeo. Cioè, se noi ci confrontiamo con Germania e Francia, non c'è niente di comparabile. Durerà così? Durerà a continuare ad andare avanti? Per forza in questo contesto di tassi anche, di interesse. Anche se il governo vi tassa dal 20 al 26% le rente degli investimenti finanziari, ad eccezione dei titoli di Stato? No, il problema non è l'aliquota, perché 20-26, nessuno di noi decide le cose perché passa dal 20 al 26. Stiamo parlando di tassazione delle famiglie, non stiamo parlando di tassazione delle imprese di gestione. Il punto è il metodo. Cioè, se noi facciamo i cambiamenti di aliquota un po' spot sull'idea che dobbiamo raccogliere qualche miliardo di euro per lo Stato, non va bene. Se lo facciamo in un'ottica razionale in cui diciamo siamo più europei, ma dobbiamo essere più europei in tutto, perché negli altri paesi le aliquote possono stare più al 25% che al 20%, ma è anche vero che ci sono degli incentivi molto forti al risparmio di lungo termine. Ecco, mi dica una cosa, se non vorrei tornare, perché mi sembra di tornare indietro di 10 anni, eravamo tutti più giovani, più belli, più freschi, ai tempi in cui conducevo Salvadanaio, però una delle grandi polemiche del risparmio gestito, che secondo me vi ha creato anche tanti danni con i clienti, era relativa ai costi di gestione. Allora, si pagava la gestione di extra performance anche quando il titolo perdeva, anche quando l'investimento perdeva. Se il mercato in media aveva fatto meno 10 e il tuo gestore aveva fatto meno 8, gli dovevi pagare la commissione, che era un po' strano, e c'erano commissioni di vario genere, per cui si era creata anche molta diffidenza. Siete riusciti a dare delle commissioni più trasparenti e anche più ragionevoli? Perché io capisco che io ho fatto meglio del mercato, ma se io voglio ridurre il mio investimento di un 10%, riconoscere anche il premio al gestore perché non ho perso il 14%, beh, voglio dire, grazie sì, ma poi c'è Graziella, prego. Ovviamente è giusto fare attenzione ai costi, ma è un mondo diverso, cioè è un mondo in cui non soltanto c'è una comprensione per la concorrenza, ma ci sono delle regole molto precise che ormai non nascono nemmeno in Italia, cioè il sistema dei fondi è un sistema europeo, le commissioni di incentivo sono state ridisegnate in maniera tale che ci sia un pieno allineamento tra gli interessi di chi gestisce e di chi rimane investito. Ovviamente si può fare sempre meglio, ma tra l'altro c'è una pressione alla concorrenza nell'abbassamento dei costi, c'è una pressione che non è indifferente e che produce effetti anno dopo anno. Ma sono più legati all'andamento reale o no? Sono assolutamente legati, tanto è vero che oggi lo strumento fondo di investimento, sia perché sotto l'aspetto dei costi, sia sotto l'aspetto di come si spiegano gli investimenti, è qualcosa che garantisce anche il consulente. Per questo viene scelto anche dello stesso consulente, perché questo ti fa superare tutto un problema di rapporto di fiducia col tuo cliente, che invece altri prodotti in passato non hanno offerto. Ah beh, li abbiamo raccontati tanti prodotti, aspettiamo con la base un attimo, sto ancora parlando, tanti prodotti nel passato, non parlo solo di quelli strutturati che nascondevano trappole, fregature immense, ma anche sulle pressioni che ricevevano i promotori per vendere certi prodotti da parte della casa madre, insomma ne abbiamo visti di tutti i colori, speriamo che a questo punto da trasparenza regni sovrana. Devo dire che appunto lei ha spiegato molto bene perché c'è questo ritorno dei capitali, il mercato del mattone è fermo se non in calo e obiettivamente investire in bot ha un senso per la protezione dell'investimento, ma non rende nulla ed è anche sotto l'inflazione. Grazie al direttore generale di Assogestioni Fabio Galli. Grazie a voi. Allora, Eleonora Micheli, tra l'altro anche i titoli in borsa in questi mesi hanno preso atto, i titoli legati al risparmio gestito, penso a Mediolanum, ma non solo, a Azimut, hanno preso atto dell'andamento. Mediolanum oggi non a caso guadagna il 3,70%, però rimbalza BPM più 5,17% dopo il calo di ieri. Su Mediolanum ci sono anche i conti. Esatto, oggi Mediolanum ha pubblicato i conti con l'utile che comunque è calato del 4% a 337 milioni, ma per oneri fiscali non ricorrenti. In particolare Massimo Doris ha spiegato che la banca ha pagato l'IRES che è stata pagata da tutte le banche assicurazioni, accantonamenti ricordiamo per il contenzioso sulla vicenda Irlanda-Italia, sulle commissioni tra Irlanda e Italia. Comunque detto questo, le prospettive per l'anno in corso sono ancora di crescita e così i titoli hanno messo a segno questa performance superiore al 3%. Per quanto riguarda le altre banche, si parla invece di un rimbalzo dopo i cali di ieri. Dopo anche la Popolare Emilia Romagna più 5%, Ferragamo bene invece, più 4,60%, Luxottica, però era un po' di sedute che il lusso era depresso, mettiamo così. Luxottica, un po' di sedute, addirittura mesi, perché anche mesi, la stessa Ferragamo è da dicembre che va giù, Tod's addirittura si può dire anche da prima, quindi probabilmente c'è un po' di riassetto a livello di comparti. Sì, anche perché Tod's oggi fa il più 3,40, cioè, dopo che vendi per un po' torni a comprare, diciamo così. Luxottica invece, dicevo, si avvantaggia ancora dell'accordo con Google. Dopo il GR24, Eleonora, vorrei invece commentare Mediaset, molto forte oggi, più 3,80% dopo i conti di ieri, e altri titoli di carattere più industriale. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Ci sentiamo dopo il GR24, parliamo anche di Cina e degli stipendi dei dirigenti della pubblica amministrazione. Focus Economia. Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni qui dal Salone del Risparmio. Allora, un paio di risposte a chi dice: ma cosa vuol dire che dopo un po' che si vende si torna a comprare? Vorrei un'analisi più dettagliata. Allora, il riferimento era al settore del lusso in borsa. È da fine dicembre, inizio anno comunque, che il settore del lusso sostanzialmente cala dopo che era cresciuto tantissimo nel 2013. Quello che si è detto è che oggi non c'è un motivo specifico per cui Tod's guadagni il 3,40%, Ferragamo il 4,60%, Luxottica in realtà ha l'accordo con Google, è un'altra storia, Yux il 3%. Probabilmente, come ricordava anche Leonora Micheli, dopo tanti cali i gestori, visto che siamo nel settore del risparmio, rimodulano il portafoglio, magari si sono scaricati un po' troppo di settore del lusso e tornano a comprare, visto che hanno venduto in molti casi guadagnandoci, vista la crescita del 2013. Questo vuol dire, mi scuso se la frase era un po' troppo sintetica, ma l'analisi non cambia di molto, anche in maniera più articolata. A chi invece dice: dovevate essere ancora più cattivi con il presidente a suggestioni, io ho fatto presente quelle che a mio avviso sono le storture del sistema e il motivo per cui molti risparmiatori si erano allontanati o guardavano con freddezza il mondo del risparmio gestito per le commissioni spesso inspiegabili, spesso non trasparenti, per prodotti anche questi spesso non trasparenti. Abbiamo fatto decine di puntate su questo, ok? Dopodiché fare un'intera puntata sul risparmio gestito, no. E se lei vuole approfondire il tema, se ne occupa anche Deborah Rosciani, che è qui dal Salone del Risparmio, che fa di definizione soprattutto la gestione del risparmio. Grazie comunque all'ascoltatore per gli insulti, va bene. Allora, torniamo con Eleonora Micheli. Dicevamo Mediaset, ieri i conti, c'era molta incertezza dopo le perdite dello scorso anno, conti di nuovo inutile, il mercato premia, più 3,80%. Eh sì, cioè il mercato ha premiato, ha festeggiato il ritorno all'utile, solo per 8,9 milioni, ma niente a che vedere con il rosso di 287 milioni del 2012. Nonostante peraltro i ricavi siano calati dell'8,2%, risentendo della debolezza della raccolta pubblicitaria. Poi i titoli hanno risentito positivamente anche delle indicazioni sulla raccolta pubblicitaria del 2014. Nel dettaglio l'anno è iniziato in modo debole, però i vertici dell'azienda hanno indicato che di avere un riscontro positivo di un miglioramento per la raccolta pubblicitaria di aprile, e quindi questo appunto ha incoraggiato sicuramente gli ordini in acquisto. Certo, fuori dal listino principale invece, e quindi mi riferisco ai migliori e peggiori, abbiamo Sacom più 20%, Poligrafica San Faustino più 20% a proposito dei tempi della New Economy, Tewind più 12% e Mer Tecnimont più 10-20%. I peggiori sono Valore Italia meno 4%, Bialetti meno 3,50%, Banca Carige meno 2,80%. Su Mer Tecnimont c'è una notizia di mercato. Esatto, c'è una notizia di mercato, visto che l'azienda ha siglato un accordo in Egitto per la costruzione del complesso petrolchimico di Tahir all'ingresso del canale di Suez. Non lo realizzerà da solo, ma si tratta di una commessa importante del valore stimato tra 1,7 e 1,9 miliardi, di cui il 50% appunto di competenza della società. Ecco, anche su Tewind, che se non ricordo male fa energia elettrica di carattere eolico. Sì, esatto. E su Cairo, ripeto, Tewind più 12%. Cairo Communication più 7,5%, ci sono notizie di mercato. Esatto, Tewind, l'amministratore delegato, ha dichiarato che la società ha fatto il piano di ordini, ha in verità già incassato ordini per la società ben superiori a quelli che erano stati indicati e che erano, diciamo, nelle prospettive dell'azienda, e quindi quando il pacchetto ordini è superiore alle prospettive, ovviamente c'è sempre da festeggiare anche in borsa. Per quanto riguarda Cairo Communication, anche in questo caso c'è un po' un risveglio della pubblicità. In particolare oggi nel corso della Star Conference, ricordiamo l'evento realizzato da Borsa Italiana per far conoscere le aziende di piccole e medie dimensioni agli investitori esteri e investitori istituzionali, è emerso che fino al 24 di marzo i dati sulla raccolta, sì, di La 7 e La 7D sono andati molto bene, sono saliti del 5,8%, e nel solo mese di marzo addirittura la raccolta pubblicitaria sempre di La 7 è migliorata del 13,4%. E da lì il rialzo in borsa. Grazie Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore. Adesso mi chiedete se Radio 24 sarà anche al Vinitaly. Certo, come ogni anno, ci mancherebbe, un appuntamento a cui tengo personalmente moltissimo, e saremo al padiglione 12 stand Abruzzo, poi vedremo altre informazioni nel corso dei prossimi giorni. Ancora c'è, mi scrive invece un dipendente di un comune delle Marche che ha meno di 40.000 abitanti, il suo dirigente percepisce 100.000 euro all'anno e altrettanti da incarichi vari extracomunali, 15.000 euro di indennità ogni 23 dicembre, ha altri 7 dirigenti a poco meno di 100.000 euro l'anno, obiettivi raggiunti, nessuno, sia tutti, perché tanto l'abbiamo già detta sta cosa. Ecco, di questo parleremo fra un attimo. Prima però avevo promesso un approfondimento sulla Cina, che voglio fare a tutti i costi oggi, perché è giusto occuparsi di Renzi, le politiche economiche, ma è giusto anche capire cosa succede nel resto del mondo. Succede un po' di tutto, perché da un lato Goldman Sachs lo scorso 20 marzo ha rivisto a ribasso le stime sulla crescita cinese quest'anno dal 7,6 al 7,3%. A pesare, dice Goldman Sachs, soprattutto la debolezza dei consumi interni cinesi, ecco perché questo importa e interessa molto anche le nostre imprese che li esportano, e l'inflazione che sarà più bassa del previsto. Da un lato abbiamo visto 5 cali consecutivi anche nel mese di marzo, era il quinto calo consecutivo per l'indice dell'industria manifatturiera cinese, che è sceso sotto i 50 punti, che vuol dire contrazione dell'economia. Il governo cinese ha forti dubbi di poter raggiungere a questo punto il 7,5% di crescita del PIL stimata per quest'anno. E sempre in questi giorni abbiamo visto da un lato China Mobile, l'operatore di telefonia, il colosso della telefonia cinese, per la prima volta annunciare un calo dei profitti, non capitava dal 99. Abbiamo visto anche il primo caso di impresa insolvente, la Shanghai Chaori Solar Energy, fallita, non è stata salvata come invece sempre avveniva da un intervento pubblico. E abbiamo visto anche il direttore generale del Fondo Monetario, Christine Lagarde, dire sostanzialmente la Cina deve affrontare grossi ostacoli per trasformare il suo sistema economico, una crescita più inclusiva, più rispettosa dell'ambiente, più sostenibile. E anche la Lagarde dice deve sbloccare il settore dei servizi. Allora, il nostro riferimento in Cina, il nostro indicatore in Cina, molto molto empirico, è un imprenditore che lavora lì da anni, che da anni interviene quando ci occupiamo di Cina, non perché abbia la visione d'insieme, i dati macroeconomici, ma perché ha il polso della vita quotidiana. Saro Capozzoli, che è numero uno della IESA, buonasera. Buonasera. Lei, come sempre, accompagna le imprese italiane che vogliono sbarcare sul mercato cinese, ma al di là di questo, lo notate un rallentamento dei consumi interni? Ed è vero che il problema è che la Cina non può più continuare a crescere solo di manifattura? Beh, questo è un dato di fatto, che non può crescere solo di manifattura, tant'è vero che è diventato non solo la fabbrica del mondo, ma è diventato il mercato del mondo. E quello che sta succedendo è che si registra, sono aggiustamenti che io chiamo fisiologici, dato che è un mercato che sta evolvendo. Quando si parla di calo dei consumi mi fa un po' sorridere, perché stiamo parlando sempre di dati di tasse a doppia cifra, e quando c'è un calo dall'altra parte abbiamo un incremento del consumo via internet. C'è stato un boom del trading online, del commercio online, che sta in certi settori soppiantando il mercato, il consumo tradizionale, e questo non è ancora registrato veramente dal mercato. Quindi come invito sempre a cercare di leggere bene i dati, e quando succede qualcosa in Cina, spesso quando ci si ferma alla superficie si traggono anche conclusioni un po' affrettate. No, vabbè, i dati aggregati sono per forza dati generali e tra virgolette superficiali, perché fotografano solo l'insieme. Ma mi dica una cosa, per gli imprenditori italiani, è chiaro che lei dice sì, certo, dovete venire in Cina, ma le opportunità più interessanti in questo momento dove sono? Resta sempre un mercato dove sta evolvendo, è sempre più sofisticato. Sì, noi abbiamo sentito parlare del lusso, ma ci sono anche tanti beni occidentali che stanno entrando anche nell'uso comune cinese. Il vino, ad esempio, noi siamo molto indietro, molti paesi sono più avanti di noi. Sì, lì manca la rete di distribuzione italiana. Quello è il problema. Noi siamo poco presenti direttamente, e solo i dati del commercio estero non sono sufficienti. Io quello che invito a vedere anche la presenza, il fatturato delle aziende presenti in Cina, che poi sono dividendi che poi tornano in Italia, bisogna sempre ricordarsi di questo, che non è comparabile con quello di altri paesi. Noi diciamo la Volkswagen, che vende qualcosa come quasi 4 milioni di automobili in Cina, non siamo fermi a poche decine di migliaia come Fiat. Sì, ma fossero le automobili, diciamo, ce ne faremmo una ragione. Il problema è che anche altri settori forti del Made in Italy, penso al legno arredo, penso alla moda, penso al vitivinicolo, all'agroalimentare, lì mancano di una rete di distribuzione commerciale forte, perché poi tu i prodotti li hai. Il grande successo di Farinetti è stato mettere a disposizione, diciamo, in altri mercati una rete di distribuzione con produttori che non ci arrivavano altrimenti. Senta, Capozzi, mi dico una cosa, anche in Cina c'è il tema dello stipendio dei dirigenti del Partito Comunista, del popolo cinese? Non nascondiamo che c'è anche molta corruzione in Cina. Questo è un qualcosa che, quindi, diciamo, vedere lo stipendio dei funzionari pubblici, diciamo, che vediamo è molto basso rispetto, diciamo, a quelli delle aziende private. Stiamo parlando di poche centinaia o migliaia di euro al mese. Quello che si vede è che in Cina il funzionario pubblico vede il proprio mandato come una missione. Poi bisogna vedere com'è portato avanti. Io conosco funzionari pubblici che non sono mai diventati ricchi e hanno portato in borsa delle aziende quotate come Lenovo e ancora altre. Non sono mai diventati ricchi perché hanno sposato la causa, diciamo, diciamo di essere public servant. Poi ci sono quelli che poi sono diventati ricchi, e comunque è un fenomeno che il governo cinese sta combattendo, che vuol dire combattere la corruzione. Cioè il public servant ha uno stipendio che gli permette di sopravvivere, hanno delle facilitazioni, ma non è visto come il funzionario che deve diventare ricco, ecco. Chi vuole, ma che deve servire il popolo, per dirlo. Va nel privato. Ecco, no, anche da noi molti dirigenti della pubblica amministrazione vivono il loro lavoro come una missione. Il problema è capire qual è la missione che si sono dati. Lo dico perché adesso ne parleremo, oggi sulle 24 ore scorpora i dati dei dirigenti della pubblica amministrazione. Capozzoli, grazie, perché da voi sono le 2 di notte, quindi grazie anche per la disponibilità. Torni o vada a dormire a seconda che lo stessi già facendo. Grazie ancora Sara Capozzoli. Traffico, e adesso l'ultima parte di Focus Economia, appunto come sono divisi gli stipendi più alti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, lo ha raccontato oggi Sole 24 Ore. Strade in diretta. Buonasera, traffico intenso nelle città come di consueto a quest'ora, più difficoltà a Roma, blindata per la visita di Obama, chiusure al traffico su Viale Rossini e la temporanea sospensione delle fermate di autobus e tram tra Piazza Ungheria, via Aldovrandi e via Mercadante. Domani, giovedì 27, i provvedimenti si concentrano nella zona del Vaticano, del Quirinale, di Villa Madama e dell'Anfiteatro Flavio. Chiusa inoltre domani dalle 13 la fermata Colosseo della metropolitana B. In autostrada, in Emilia, le code per lavori sull'autosole nel tratto emiliano tra Parma e la 15 in direzione Bologna e tra la A22 del Brennero e Reggio Emilia verso Milano. Cantieri anche in Toscana, sempre sull'autosole, e code di 3 km tra Arezzo e Valdarno verso Firenze. Torniamo tra mezz'ora. Focus Economia. Noi dobbiamo far capire come classe politica che è arrivato il momento di dire basta al fatto che guadagnano sempre i soliti e si inizia a tagliare sui costi e sui posti della politica. Ecco perché le province, ecco perché il superamento del Senato, ecco perché il tetto ai dirigenti pubblici che non possono guadagnare le cifre che in alcuni casi guadagnano. Allora, così Matteo Renzi oggi appunto a Scalea in provincia di Cosenza. Il Sole 24 Ore oggi entra sul tema e dice: attenzione, è vero che i dirigenti pubblici di prima fascia e seconda fascia sono più pagati in media degli altri paesi, lo abbiamo raccontato, il 100% più della media dei paesi europei, ma il 10% nel caso dei dirigenti di prima fascia, però è giusto andare nelle varie dipartimenti e nei vari ministeri. Allora, sono 224.000 i beneficiari, sono 118.000 i dirigenti che guadagnano almeno 80.000 euro lordi. Pensate che lo stipendio complessivo dei dirigenti, da pubblica, di questi dirigenti, incide per il 10%, che è tantissimo, sulla spesa complessiva per le retribuzioni della pubblica amministrazione. Ma Davide Colombo del Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, eccoci. Allora, voi avete scoperto anche altre cose, nel senso che se io vado a vedere il corpo diplomatico ho il 96% dei funzionari che guadagnano almeno 80.000 euro lordi l'anno, in magistratura al 90%, nell'autorità indipendente il 43%, adesso poi ci racconterai i vari casi, e poi ci sono invece in fondo alla classifica i vigili del fuoco, solo lo 0,6% dei dirigenti, la polizia solo lo 0,8% e nessuno nella scuola. Faccio però notare che qui parliamo di dirigenti, mi stanno scrivendo molti ascoltatori, dov'è quello di Biella che mi ha scritto poco fa, dei dirigenti delle ASL, eccolo qua, ASL Biella, oltre a rubare il suo lato stipendio è arrogante, parcheggia regolarmente nei posti gialli per i disabili, denunciatelo ai vigili se fa una cosa del genere, anche perché fa il dirigente della ASL. Detto questo, le differenze sono enormi dentro la pubblica amministrazione. Davide. Sì, le differenze sono enormi e sono soprattutto legate, per usare un primo distinguo tecnico, alla famosa parte variabile dello stipendio complessivo, cioè quella che dovrebbe essere legata ai risultati o alle responsabilità mansionali legate a un'organizzazione, in alcuni casi sia pur complessa, ma che appunto si sono stratificate negli anni e hanno cumulato delle differenze enormi. Dentro il Ministero dell'Economia o il Ministero dell'Agricoltura, per fare due esempi, ci sono capi dipartimento, quindi dirigenti generali di prima fascia apicali, che possono guadagnare anche il 90, 80, 90 mila euro uno più dell'altro, no? Perché hanno ottenuto dei riconoscimenti sulla parte variabile della loro indennità complessiva con incarichi che magari hanno avuto in governi partecipando a gabinetti di ministri e che hanno trascinato nel tempo e che hanno in qualche modo si sono mantenuti. Ci sono amministrazioni dove i dirigenti di seconda fascia sono molto meno numerosi che nei ministeri, per esempio la presidenza del Consiglio dei Ministri, e allora lì hai una media stipendiale complessiva del dirigente, della presidenza del Consiglio dei Ministri, che è molto più alta rispetto a quella che è la media generale. Si tratta veramente di capire che tipo di intervento vuol fare il governo. Adesso, dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio che hai fatto risentire, mi verrebbe da chiedere se stiamo andando verso una operazione di equità sociale o un'operazione di, come dire, di intervento drastico sulla burocrazia. Mi spiego. Si è sempre usato come riferimento i 293.310 euro lordi l'anno che prende il capo dello Stato, no? Se questo è il tetto, allora è un ragionamento che per esempio vale anche per alti burocrati della Presidenza della Repubblica che prendono circa il doppio del capo dello Stato, ecco, per esempio. Viceversa, se l'obiettivo sono solo i burocrati, evidentemente l'intervento sarà un intervento che noi pensiamo abbastanza incisivo. Mi sentite? Sì, sì, molto, ecco. Molto bene, cioè, Davide. Nel senso, io ho calcolato che, dicevi giustamente 10% tu prima, la massa stipendiale dei dirigenti complessivi è 16 miliardi. Intervenire su questi 16 miliardi per portare a casa 500 milioni come previsto dal commissario allo spending Cottarelli è un'operazione che a prima vista sembrerebbe non impossibile, però da questi 16 miliardi ne togliamo 13 che sono gli stipendi dei medici, cioè sì. Gente che arriva a 75 mila euro lordi l'anno circa, no? Sì. Ne restano 3. Uno di questi 3 sono i dirigenti di regioni e province autonome, con un decreto rischia, perché bisogna fare una norma di coordinamento di finanza pubblica perché l'autonomia è prevista, per cui è difficile. Quindi la massa credibile non è così enorme per portare certo. A casa mezzo miliardo strutturale su base annua. Bisogna vedere cosa sarà la scelta finale, insomma. Davide, il tuo ragionamento è chiarissimo, fermo restando che vorrei, ma non faccio populista, un medico che magari, se se lo merita, guadagna anche un po' più di 70 mila euro di l'anno, e invece sul dirigente della regione, della provincia, facciamocene una ragione. Fermo restando che non ce l'ho, lo dico chi scrive con gli ambasciatori e i consoli, dico solo che il 90% sopra gli 80 mila euro mi sembra che, e questo vale anche per i magistrati, che non vi sia un legame tra retribuzione e merito, o vogliamo dire che tutti i consoli, tutti e gli ambasciatori lavorano tutti bene e tutti meritano quella cifra, e vale anche per i magistrati. Chiudo dicendo a chi mi continua a scrivere: ma perché non parlate anche degli stipendi che la RAI dà per Sanremo? Giusto, dove c'è denaro pubblico il ragionamento va fatto. Vale anche per Prandelli, tifo Italia, ci mancherebbe, ma vale anche per lo stipendio di Prandelli. Se ragioniamo dello stipendio di Moretti, che ha la responsabilità della gestione delle ferrovie dello Stato, e ragioniamoci pure, e vale anche per quanto guadagna un conduttore di Sanremo col denaro pubblico della RAI, e vale anche per quanto guadagna l'allenatore della nazionale di calcio, visto che il denaro è pubblico anche in quel caso. Grazie Davide Colombo, da Sebastiano Barigione è veramente tutto, e un augurio di buona serata. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.